Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Se pensate di sfuggire alle classificazioni, rassegnatevi, anche il più alternativo di noi finisce in una qualche casella delle teorie del marketing o roba del genere. E se qualcosa mancava per classificarci meglio era la possibilità di seguire centimetro per centimetro i nostri spostamenti, cosa che di recente è accaduta grazie alla diffusione dei dispositivi mobili come gli smartphone e con la, diciamo così, propagazione dell'Internet of Things. Questa nuova possibilità nasconde certo delle insidie dal punto di vista della privacy, ne abbiamo parlato, ma è un potentissimo nuovo strumento che permette di studiare le nostre abitudini e i nostri comportamenti, una specie di microscopio sociale con cui possiamo, diciamo così, conoscerci meglio. Un esempio lampante di ciò è lo studio recentemente pubblicato su Nature Communication dall'ISTI, l'Institute of Information Science and Technology del CNR di Pisa, in collaborazione con l'Università di Pisa e altri ricercatori di università straniere. Ebbene, da questo studio è emersa una nuova fondamentale distinzione negli schemi di mobilità di noi umani, che tanto per cambiare ci dividiamo in due grandi gruppi. Ci spiega tutto Luca Pappalardo, ricercatore del CNR e dell'Università di Pisa. Buonasera Pappalardo. Salve, buonasera. Senta, prima di parlare dei risultati ci dica che dati avete esaminato, su cosa si è basato questa vostra ricerca. Allora, abbiamo usato due tipi di big data. Nel primo dataset abbiamo analizzato la mobilità di circa 60.000 individui che hanno effettuato delle telefonate in un periodo di 3 mesi. Ogni volta che noi effettuiamo una telefonata, l'operatore telefonico registra la nostra posizione, così possiamo ricavare le traiettorie di ogni individuo. L'altro dataset, tratto insieme di big data, invece riguarda i viaggi automobilistici di circa 50.000 individui che abbiamo seguito in Toscana per il periodo di 1 mese. E in questo caso, ogni volta che l'individuo accende l'automobile, il dispositivo GPS incorporato nell'auto manda automaticamente dati ad un server, consentendoci di ricostruire la mobilità, le traiettorie di mobilità dell'automobile per tutto il periodo di osservazione. Benissimo, e a partire da questi dati che cosa avete scoperto? Beh, abbiamo fatto una scoperta sorprendente e molto interessante. Abbiamo scoperto che le persone si dividono distintamente in due profili ben diversi. Ogni persona è un abitudinario o un esploratore. Ecco, forse la questo non è poi così sorprendente, no? In fondo nella vita sappiamo che è un po' così, però è impressionante, esatto, Trovarlo in questo modo così netto all'interno di questi dati. La cosa sorprendente è che non c'è una via di mezzo tra questi due profili. Una persona o è abitudinario oppure è esploratore. Potremmo immaginarci di avere un determinato grado di esplorazione, no? Cioè chi è più esploratore, chi è meno esploratore. In realtà abbiamo scoperto che siamo o esploratori in modo netto o abitudinari in modo netto. Ecco, questa, che cosa vuol dire? Cosa cambia, anche se un po' si intuisce, fra questi esploratori e questi abitudinari? Gli esploratori hanno una mobilità a stella, il che vuol dire che hanno un cuore di mobilità che è composto generalmente da la casa e il lavoro, diciamo, il posto dove abitano, il posto dove vanno a lavorare o a scuola. E poi c'è una costellazione di altri gruppi di locazioni che emergono attorno a questo cuore. Gli abitudinari invece sono caratterizzati da una mobilità bimodale, quindi concentrano le proprie locazioni, i posti che visitano, attorno a due cuori principali, che sono il cuore della casa e il cuore, diciamo, del posto di lavoro oppure della scuola. Questa è la principale differenza, una differenza sostanzialmente geografica. Più o meno in che rapporto sono numericamente esploratori e abitudinari? La proporzione della popolazione di abitudinari ed esploratori è molto simile. Circa il 45% della popolazione può essere classificato come esploratori. Come esploratori? Quindi ci sono, sì, più esploratori di quanto potremmo immaginarci, anche se la maggior parte della popolazione è comunque costituita da abitudinari. Senta, quali sono le ricadute, le possibili applicazioni di questa vostra scoperta, chiamiamola così, scoperta sociologica in un certo senso? Sì, possiamo avere, io credo ci siano 3 principali conseguenze della nostra scoperta. La prima riguarda la diffusione delle epidemie, lo studio epidemiologico, perché abbiamo scoperto che in uno scenario in cui si diffonde un'epidemia sul territorio, sono gli esploratori che sono gli attori principali che causano questa diffusione. La seconda implicazione della nostra scoperta riguarda sicuramente la pianificazione urbana. Abbiamo anche sviluppato un modello matematico che è in grado di catturare la mobilità degli individui e di catturare anche la divisione degli individui in abitudinali ed esploratori. Quindi prima di costruire un'autostrada, prima di costruire una nuova infrastruttura, questo nostro modello può essere utilizzato per simulare quale sarà la mobilità futura di questi individui. Con una precisione maggiore, certo. Una precisione maggiore dei modelli precedenti. Infine ha anche un impatto sociologico, perché abbiamo scoperto che abitudinari ed esploratori mostrano un certo grado di omofilia sociale, ossia gli esploratori tendono a chiamare preferibilmente altri esploratori e gli abitudinari tendono a chiamare preferibilmente altri abitudinari. Chiaramente non è un qualcosa di esclusivo, quindi gli abitudinari certo chiamano anche altri esploratori, ma hanno una preferenza verso persone che sono simili. Grazie Luca Pappalardo. Grazie a voi. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a lunedì.